Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Eccoci qui, le 10 e 7 minuti, buona domenica, da Stefano Gallarini comincia Il riposo del guerriero e oggi cercheremo proprio di riposarci, nel senso che almeno con la mente viaggeremo. Questo sarà un po' l'argomento, la giornata, sicuramente lo è, non sarà, è proprio così. Parleremo di viaggi, ma viaggi da tutti i punti di vista, i viaggi che si possono fare proprio con la mente, proprio low cost, costo zero, nel senso proprio non si spende niente perché si rimane a casa, ma in qualche modo si può veramente viaggiare, poi oggi la tecnologia ce lo permette. Ai viaggi invece low cost, dove si può spendere poco e viaggiare, guardare, ammirare, a quelli fatti in automobile, quelli in bici, quelli a piedi, quelli su itinerari curiosi, speriamo anche diversi dal solito. Insomma, avremo la possibilità di capire come impostare quelle che saranno le nostre vacanze, perché spero che tutti abbiano un po' di vacanze da fare. È vero che i soldi mancano, quindi non tutti potranno permettersi di spenderli per andare da qualche parte, ma appunto, come vi dicevo, si può anche viaggiare con la mente e in qualche modo informarsi nella stessa maniera, di come se si fosse veramente lì. Questo è l'argomento di oggi, ma come sempre i numeri per i vostri messaggi al 349 238 6666 e come sempre alle 11:30 giocheremo con il mistero in 24 minuti, la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere in libri cartaceo e elettronici su libreriarizzoli.it e per arrivare alla soluzione dovrete riuscire a risolvere il mistero. Abbiamo degli indizi musicali da farvi ascoltare, più indizi ascolterete più il premio si abbasserà e il primo indizio di questa settimana, eccolo qui. Due specchi contro riflessi ma lontani. Eccolo qui, questo è il primo indizio, per cui dateli da fare, spremete le meningi, ragionate, alle 11:30 al gioco. Il numero verde per prenotarvi, ve lo dico subito, fatelo adesso, 800 24 00 24. E visto che oggi parliamo di viaggi, non potevo che iniziare se non con lui. Senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo. Tornare a viaggiare, cominciamo a viaggiare grazie a Lucio Battisti che ci ha introdotti un po' così in questo immaginario, perché il viaggio lo è sicuramente. Io inizierei con un viaggio, ma visto da un altro punto di vista. Pierluigi Sacco, buona domenica. Buona domenica. Pierluigi Sacco è professore ordinario di economia della cultura con delega rettorale all'innovazione e alle relazioni internazionali e anche coordinatore del corso di laurea magistrale in arte, patrimoni e mercati dello IULM. Professore, intanto cerchiamo di spiegare che cos'è l'economia della cultura. L'economia della cultura è oggi una disciplina molto importante perché ci permette di capire come collegare, per esempio, il nostro straordinario patrimonio storico e artistico con i processi di creazione del valore economico, quindi come creare sviluppo, come creare occupazione, come creare anche nuove professioni e nuova impresa intorno a tutto questo nostro patrimonio, ma anche a tutta la produzione culturale che ha a che fare con le nuove tecnologie, che ha a che fare con tutti i campi dell'industria culturale, dall'audiovisivo alla musica, all'editoria e così via. Ecco, quindi cultura anche proprio come mestiere da questo punto di vista, come modo per crescere. E di questo punto parliamo, volevo cominciare proprio da qui, perché l'Italia che rappresenta uno straordinario patrimonio culturale, volevo capire come si sta muovendo in questo senso e come i giovani che devono affrontare un percorso di studi possono avvicinarsi e che cosa poi potranno concretamente fare. Il riposo del guerriero. Professor Sacco, ecco, economia della cultura. Allora, l'Italia come si sta comportando in questo senso? Come sta sfruttando, tra virgolette, il suo patrimonio? Diciamo che non lo sta sfruttando abbastanza, nel senso che in Italia da qualche anno, ormai da parecchi anni, si punta l'attenzione soltanto sul tema della cosiddetta valorizzazione del patrimonio, cioè il poter investire sul nostro patrimonio per creare delle filiere di produzione del valore legate per esempio all'indotto che si provoca attraverso il turismo culturale con l'impatto su tutta l'industria dei servizi, gli alberghi, i ristoranti, i souvenir, eccetera. Diciamo che questa è sicuramente una modalità importante, ma decisamente minore rispetto a quello che sarebbe la vera scommessa, cioè quella di portare il nostro patrimonio all'interno di un nuovo sistema di produzione culturale legato soprattutto all'industria dei contenuti. Noi sappiamo che nel prossimo futuro le aree su cui crescerà molto l'economia non soltanto europea ma in realtà globale sono proprio i contenuti legati alle piattaforme online. Noi oggi vediamo che per esempio esistono aziende che pochi anni fa non esistevano, nel giro di pochi anni, soprattutto come aggregatori di contenuti, diventano delle aziende di dimensione multinazionale. Pensiamo a un sito di aggregazione di contenuti video come YouTube, che nel giro di pochi anni diventa più importante di una grande televisione. Ecco, il nostro patrimonio è una straordinaria fonte di produzione di contenuti che può essere naturalmente messa a sistema in maniera molto importante. Lei si immagini che cosa vuol dire, per esempio, riuscire a mettere davvero su una piattaforma digitale tutto il sistema di contenuti delle nostre collezioni museali, del nostro territorio, e questo significa naturalmente grandi opportunità future per i giovani che vogliono lavorare non soltanto all'interno di un sistema delle professioni, ma che vogliono fare impresa intorno a questi nuovi canali. Ecco, tra l'altro lei, insomma, come racconta la cosa, che mi trova anche particolarmente d'accordo, essendo un grande appassionato in questo senso e credendo anche molto nel potere proprio della rete, della sua diffusione, delle possibilità che ancora ci sono. Volevo capire allora che risposta c'è da parte di chi deve affrontare un percorso di studi, come può essere, appunto abbiamo accennato, alla laurea magistrale in arte, patrimonio e mercati dello IULM, e invece quali ostacoli ci si trova ad avere in Italia per poi mettere in atto tutto quello che abbiamo raccontato. Devo dire che una delle grandi soddisfazioni è proprio la risposta che ci arriva in questo momento dai giovani, dai nostri studenti, ma anche proprio da tutti quelli, e sono tanti, che in Italia si muovono lungo questo percorso. E devo dire che molto spesso si tratta anche di alcuni dei nostri giovani più brillanti, più preparati, che scelgono questo nuovo campo perché intuiscono che qui ci sono delle grandi possibilità. Da parte loro c'è un grandissimo entusiasmo, c'è una grande voglia di fare, e devo dire sono anche orgoglioso, insomma, dei profili che si riescono a sviluppare in questo ambito. D'altra parte devo dire che invece a livello delle istituzioni siamo particolarmente in ritardo. L'Italia, pur essendo un paese che ha ovviamente una grande tradizione, è tuttora una grande realtà dal punto di vista della capacità produttiva in questo senso. Lei pensi che a livello regionale ci sono 4 regioni italiane tra le prime 25 dal punto di vista della dimensione degli addetti sulla cosiddetta industria culturale e creativa, che raggruppa un po' tutti questi campi. Il problema è che però l'Italia in questo momento come paese non ha alcuna strategia, per esempio, sullo sviluppo dell'industria culturale e creativa, ed è uno dei pochissimi paesi dell'Europa 27, forse l'unico in un certo senso, che si trova in questa situazione. Ecco, quindi, insomma, cosa possiamo fare, cioè, da questo punto di vista? Come possiamo svegliare le istituzioni perché ci possano credere poi? Il messaggio che bisognerebbe davvero mandare al neo ministro Galan è proprio quello di porre l'attenzione su questo tema, capire quanto sta diventando importante l'industria culturale e creativa in Europa e fare veramente un grandissimo sforzo per cominciare a organizzare la nostra strategia futura di sviluppo culturale attorno a questo tipo di temi. Abbiamo delle grandissime competenze. Abbiamo peraltro un patrimonio straordinario che può essere messo a valore, ma in un modo diverso da quello che abbiamo immaginato finora, ma abbiamo soprattutto una grandissima spinta che credo ci venga dalla società civile di questo paese, che vuole, credo davvero, tornare a vivere intorno alla cultura come un momento fondamentale della propria vita quotidiana, della propria qualità della vita. Ecco, infatti è un patrimonio che ci appartiene e dobbiamo in tutti i sensi farlo fruttare, proprio da tutti i punti di vista e anche in modo intelligente. Io spero che sia così, insomma, mano a mano che si sta andando avanti comunque vedo che c'è sempre più interesse verso questo aspetto, la digitalizzazione, il valore di internet, la possibilità di comunicare anche in un altro modo, e quindi se c'è, come diceva lei professore, grande entusiasmo da parte di chi opererà poi in questo settore, speriamo che tutto questo diventi una spinta. anche perché creerà posti di lavoro, ovviamente. Quindi sarà una bella spinta anche dal punto di vista economico. E per Luigi Sacco la ringrazio e vuole ricordare il sito per avere delle informazioni, per esempio chi volesse avvicinarsi a questo tipo di percorso scolastico, di studi? Sì, naturalmente il nostro sito è www.iulm.it e poi c'è il canale legato alla Facoltà di Arte, Mercati e Patrimoni della Cultura. Ok, così potete trovare tutto. Se avete invece così volete più informazioni su quello che è proprio l'economia della cultura, c'è un sito dedicato a questo che è Economia della Cultura. Grazie professor Pierluigi Sacco. Grazie a voi. Buona domenica. Andiamo avanti, vediamo se ce la facciamo a parlare, penso di sì, con Albano Marcarini. Buongiorno Albano. Pronto? Allora, buongiorno. Albano Marcarini, dovete sapere che è l'autore di un libro che è La ferrovia Domodossola, Locarno e la via del mercato, in treno e a piedi nella Val Vigezzo e nelle Cento Valli. Io avrei voluto parlare con lui di questo percorso, ma in realtà parlo di tutt'altro, perché ho scoperto che fa parte del gruppo dei 24 ciclisti. Quanti siete? Siamo 24 ciclisti, mi scuso se la mia voce vi giunge un po' affaticata. No, è su un passo in questo momento. In questo momento stiamo salendo il passo della Futa in direzione di Firenze e stiamo partecipando a questa carovana ciclistica del Touring Club Italiano da Milano a Roma, che è una rievocazione storica di quella che fu fatta nel 1895, appena fondato il Touring, proprio per lanciare la bicicletta come grande mezzo di trasporto, e devo dire che sono passate più di un secolo e la bicicletta è ancora attuale. Ecco, infatti sta tornando particolarmente di attualità la bicicletta. Che nel primo tratto, partendo da Bologna, ci ha accompagnato un signore che di nome fa Romano e di cognome Prodi. E lui è un grande appassionato, lo sappiamo. Un grande appassionato ci ha accompagnato nel primo tratto. Ecco, tra l'altro questa ovviamente non è una gara, semplicemente è una rievocazione storica ed è un modo per stare insieme e farsi molti chilometri, sono 700 se non mi sbaglio, sono più o meno. 750 chilometri, naturalmente non lungo le strade principali, ma lungo le bellissime strade del paesaggio italiano, le strade minori. Senta, qualcuno, Albano, si sta aggiungendo, per esempio, se vi vede andare, dice mi aggiungo anch'io, mi aggrego almeno per un pezzo, si può? Ma naturalmente si può, basta collegarsi su Facebook, sì, alla pagina Carovana Ciclistica Touring Club Milano-Roma, e lì troverete tutto il percorso e gli orari di passaggio per chi volesse appunto fare un tratto di strada con noi. Noi stasera saremo a Firenze, domani saremo a Pienza, città magnifica, e dopodomani a Orvieto, e quindi arriveremo a Roma mercoledì sera ricevuti in piazza del Quirinale. Ecco, ce la farete? Sì, immagino, perché se riesce a parlare al telefonino mentre pedala sicuramente ce la faremo assolutamente. Se, secondo me arrivate anche oggi, cioè a volerlo stasera siete già lì a Roma, voglio dire, non potrete farlo. Ma senta, Albano, poi la lascio pedalare. Ovviamente il bike sharing, c'è la possibilità di prendere in prestito le bici che i comuni mettono a disposizione in alcune città, Milano e Torino per esempio, Roma non so se ha continuato a farlo, c'è stato un esperimento e non so, non sono informato da quel punto di vista, quindi non so come stia andando. Milano e Roma invece, Torino e Milano sono sicuro. E lei crede che gli italiani finalmente cominceranno a capire non il valore di andare in giro con la bicicletta e lasciare a casa ogni tanto l'automobile? Ma naturalmente sì, tutti questi esperimenti che si fanno sono a favore di una riappropriazione di un mezzo di trasporto che nel corso del tempo non è mai cambiato, semplice, economico e che fa bene anche alla salute. Ma io vorrei, più che il bike sharing, vorrei affermare questa esigenza di recuperare in tutta Italia tutte le infrastrutture che sono state dismesse e recuperarle a favore della bicicletta. Pensi che noi in Italia abbiamo 6.000 chilometri di ferrovie abbandonate dove non corre più un treno. Sì. Pensi se noi su questi sedimi abbandonati potessimo fare delle piste ciclopedonali. Potremmo attraversare l'Italia e i suoi bei paesaggi a ritmo lento e in bicicletta. Io tra l'altro spesso ho avuto anche come ospite Luigi Cantamessa, che si occupa dei treni storici italiani. Naturalmente. Ecco, perché quella è un'altra un'altra possibilità, quella di vedere l'Italia proprio ripercorrendo con le vecchie locomotive a vapore proprio quei tratti che sono chiusi, perché alcuni vengono riaperti apposta. Naturalmente, noi siamo dell'idea che laddove è possibile le ferrovie debbano essere recuperate al loro servizio, magari turistico, ma laddove sono definitivamente abbandonate, la soluzione migliore è fare questa trasformazione in piste ciclabili, come del resto si sta facendo in tutti gli altri paesi d'Europa, in Spagna, in Francia, e portano turismo perché i turisti cercano questo nuovo modo di muoversi, non più in automobile ma con altri ritmi. Bene, c'è aria di cambiamento, sono contento anche per questo vostro sforzo, questa carovana ciclistica Milano-Roma. Ricordo a tutti, questo gruppo di 24 ciclisti in questo momento sta andando verso Firenze, domani Firenze-Pienza, poi Pienza-Orvieto e il 15 giugno Orvieto-Roma, e se siete a Roma andateli ad accogliere. Grazie ancora Albano, buona giornata. Arrivederci. Io non ce la farei, ovviamente, assolutamente. Io vado in bici, mi piace molto e cerco di usare l'auto il meno possibile. Mi sposto con quella quando posso, però non credo di riuscire a fare un passo come lui stava facendo al telefonino, chiacchierando al telefonino. Non credo proprio di potercela fare. Spero che invece voi siate in grado di farlo. Vi ricordo il numero per gli sms: 349-238-6666. Nel caso così vogliate partire, perché adesso parleremo di mete invece possibili, mete da scoprire, non fate come questo personaggio, ovvero Raniero. Oh, sì? Buongiorno, non mi disturba affatto, mi dica. Mi legga i valori? Leucociti? Linfociti? VES? Aia. Allora, mi sospende il Trimagon 300 e mi prende il Lopozid Retard, una colazione. A presto, mi faccia sapere. Prenda adesso la luce perpetua, ripò. Pronto? No, non mi disturba affatto, mi dica. Ci risiamo, eh? Ho capito. Senta, lei mi ha fatto il Semagort 300? Non me lo sopporta, eh? Allora, sostituiamolo con Socortene fiale da 3 mg per 5 giorni, uno la mattina. E lo corroboriamo con Clarizid Forte, che è un complesso vitaminico. Si faccia risentire. Ecco, questo era Verdone in viaggi di nozze. Lui era Raniero, questo medico sempre a disposizione. Ecco, quando andate in vacanza spegnete proprio tutto e cercate di godervele. Il riposo del guerriero. Mi piace leggere le vostre esperienze. Il numero per gli sms è 349-238-6666. Il riposo del guerriero oggi si sta occupando di viaggi, perché insomma ci siamo quasi, no? È il periodo giusto. Ieri tra l'altro sono dovuto andare sul lago di Garda per lavoro e ho visto già veramente una quantità straordinaria di tedeschi pronti a fare le loro belle vacanze, no? Incuranti del clima, ma ieri c'era il sole, si stava anche bene, però insomma loro cominciano, lo sappiamo tutti, già in questo mese. Noi arriveremo tra un mese circa a farci le nostre fino a settembre. Soggiornale al Monreal di Marrakech, dice un'ascoltatrice: sono tornata rinata, cure di bellezza, cibi naturali, oasi di pace e il volo andata e ritorno 80 euro, per cui insomma bisogna forse usare questi periodi. Poi oggi vedremo anche come risparmiare, cercheremo un po' di consigli e che cosa fare, anche perché è cambiato. Una volta c'era il last minute, oggi c'è il low cost e anche ci sono anche altri modi di viaggiare spendendo poco. E Paolo che aggiunge: per anni ho passato le mie vacanze in bicicletta in Europa e in Italia devo dire abbiamo i paesaggi molto più belli, però siamo poveri e carenti di infrastrutture, e questo chiaramente è un problema. Claudia Vassallo, buona domenica. Buona domenica. Allora, Claudia Vassallo ci parla di una guida molto curiosa, perché dobbiamo essere onesti, insomma la bici sicuramente, il treno ne parleremo, a piedi indubbiamente, però quello che gli italiani amano di più è l'automobile, Claudia. Sì, ma è una questione di amore, ma in questo caso è anche una questione di praticità, perché gli itinerari che sono più curiosi, sfiziosi, a parte appunto l'intervento che ho sentito prima, così ginnico. Bisogna anche avere la forza per farlo. Esatto. Allora, la guida di cui stiamo parlando si intitola proprio così: Italia da scoprire, viaggiare in automobile verso mete insolite e lontane dalla folla. Innanzitutto, Claudia, girando con un'automobile, davvero sì, riusciamo a trovare un'Italia insolita da scoprire ancora? Sì, è possibile. ovviamente bisogna seguire itinerari non autostradali, fare strade secondarie, soffermarsi nei piccoli borghi, avere quel gusto proprio per la scoperta, che è normalmente un'esperienza multisensoriale, cioè che ha sia una parte artistica, sia una parte naturalistica, sia anche alloggiare in posti e luoghi tipici e mangiare e gustare le specialità del posto, quindi è un'esperienza completa che sempre più gente, almeno secondo me, è portata a fare. Poi gli itinerari che sono inclusi in questa guida sono normalmente piuttosto brevi, da 2 a 5 giorni, e questo consente di programmare delle escursioni anche non di lungo periodo, vacanze lunghe, eccetera. E poi ovviamente hanno anche un occhio alla consapevolezza ecologica e al rispetto del territorio, che questo è sempre più importante. Certo, deve restare comunque alla base del viaggio, anche fatto in auto ovviamente. Esatto. Un'idea che mi veniva, per esempio, poteva essere quella di aggiungere un percorso alternativo alla destinazione, no? Io magari ho le vacanze in un certo punto e al posto di fare il mio tratto autostradale per arrivarci, a un certo punto del tratto, magari a metà strada, esco dall'autostrada e faccio appunto un percorso di questi nell'entroterra, sì, per andare infatti a scoprire. E infatti questo è possibile, come anche è possibile, e si parla qui appunto di occasioni di viaggio, essere da quelle parti per tutt'altro motivo, magari un motivo di lavoro o un altro motivo familiare, decidere di prolungare concedendosi un weekend oppure 4-5 giorni in zona visitando i luoghi più interessanti. Ecco Claudia, possiamo fare qualche esempio? Ci sono sì, 24 certo. itinerari, se non mi sbaglio, chiaramente sì. non ve li raccontiamo tutti, ma tanto no. per avere un'idea. Abbiamo fatto una scelta di campo piuttosto coraggiosa, nel senso che per esempio non c'è Roma. Beh, perché ovvia, perché certo. avete cercato di evitare i luoghi ovvi, ma anche perché uno ci arriva da solo. Esatto, no, volevo dire una guida d'Italia in cui non c'è Roma è abbastanza particolare, però diciamo che questo è un po' nello spirito. Beh, ma se è un'Italia da scoprire esatto. ci vuole, insomma, perché poi si finisce con le solite tra virgolette, perdonatemi, città d'arte che vanno benissimo, però c'è anche molto altro nel nostro paese, grazie al cielo. Io ho scelto un itinerario ligure, nella sì. Liguria di Ponente, perché proprio ha queste due componenti, cioè i luoghi anche già visti, già conosciuti, ma agganciati a luoghi invece da conoscere e da scoprire. E l'itinerario della Riviera dei Fiori, così si chiama, ha inizio a Dolce Acqua, che è appunto un borgo della Val di Nervia. Con un ponte straordinario. Esattamente. E poi si prosegue per Pigna, poi per Baiardo, poi Apricale, che è noto, poi per Inaldo, poi arriviamo alla notissima Sanremo, a cui se si vuole si dedica mezza giornata. Sì, ci passiamo proprio così, tanto sì, per, esatto. perché la strada passa da lì. Esatto. esatto. Però ha comunque delle cose da certo, vedere, certo. eccetera. Poi abbiamo Porto Maurizio, lungo il mare, Oneglia e Cervo. Ecco, la particolarità di questa guida è che ti indica anche, e per la Liguria è importante, i periodi dell'anno in cui è più agevole fare questo itinerario e quando invece è un po' da scartare, diciamo. E questo è sicuramente importante. Poi racconta anche le feste e le sagre che durante l'anno è possibile trovare. Anche cose culturalmente rilevanti al di là delle feste e delle sagre, per esempio il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. Ci sono manifestazioni che forse molti italiani non conoscono e che hanno proprio sono situati in questi luoghi molto piccoli. Ecco, tra l'altro Claudia, mi permetto di aggiungere una cosa, questo è uno degli itinerari che io ho fatto anni fa e veramente sono molto contento di averlo fatto, l'ho anche ripetuto perché è proprio molto molto bello, non troppo distante per chi insomma abita nelle città del nord, sicuramente è assolutamente fattibile. Ci sposteremo al centro, immagino, adesso. Sì, ci spostiamo al centro e io ho scelto Umbria per buon gustai. Beh, mi associo. perché? Proprio perché volevo mettere l'accento sulla multisensorialità di questi viaggi, per cui adesso a questo punto l'accento è sul cibo e si parte dalla ben nota Spoleto, però poi ci si inoltra a Vallo di Nera, a Cerreto di Spoleto, a Norcia, al passo sopra il Piano Grande, Castelluccio, Visso e infine l'Abbazia di Sant'Eustizio. E questo itinerario inizia con una passeggiata per Spoleto, poi va in Vallo di Nera, dove ci sono questi vicoli stretti, tortuosi da percorrere, e il famoso Ponte delle Torri anche, e lì è possibile anche, una cosa che non ho detto, sì? Fermarsi per dormire nei vari agriturismi piuttosto che spuntini, e ovviamente, dato che si tratta di un itinerario gastronomico, tartufo, salame di Norcia, lenticchie di Castelluccio e chi più ne appena metta da questo punto. Alle 10.40 adesso, tra poco, se dovessimo ripetere, poi avremo anche il gastronauta più tardi, quindi sicuramente sì. La voglia. Ecco, questa guida dà anche la possibilità di andare a visitare direttamente i produttori, dà indirizzi, possibilità di andare a assaggiare i vini nelle varie cantine, i tartufi, eccetera. E quindi questo è, secondo me, importante appunto all'insegna di questa multi. Certo, tra l'altro è importante anche perché abita da quelle parti, perché a volte, anzi spesso, noi italiani siamo un po' pigri, no? Conosciamo magari meglio ciò che è molto distante e poco quello che è molto vicino. Ecco, difatti questo discorso di prossimità è molto importante, perché è ovvio che anch'io ho fatto quell'itinerario ligure che lei sì. mi ha citato, perché vivo nel nord, però chiaramente già questi luoghi dell'Umbria... Già non li conosco neanche io, infatti, esatto. Assolutamente no. Poi, ci spostiamo al sud. Ecco, e qui c'è secondo me una vera chicca, perché è l'itinerario nei vulcani di Sicilia, perché noi siamo da questo punto di vista portati a pensare che ci sia l'Etna e punto, e poi le Eolie, ma invece c'è tutto un itinerario di tipo naturalistico, e qui appunto andiamo al punto natura, che può essere estremamente interessante e che ha come punto di inizio Taormina, per iniziare da una cosa ben nota. Poi le Gole d'Alcantara, dove è possibile fare escursioni naturalistiche, ma anche fare i vari sport acquatici, tra quelli più adrenalinici, insomma. Poi c'è Francavilla di Sicilia, Castiglione di Sicilia, poi abbiamo tutto un giro intorno all'Etna da percorrere a piedi, e Randazzo, Castello di Maniace, e poi via ancora verso i Monti Peloritani, Novara di Sicilia e alla fine Milazzo. Ecco, quindi insomma un bel giro da fare anche in occasione del 150° a questo punto, perché esatto. mi sembra giusto. Un po' più lungo, 4 giorni. E va bene, però insomma quando i siciliani sono lì, però chi invece dovesse andare in Sicilia per visitarla, perché è una terra straordinaria, come ripeto, lo so, tutta l'Italia è così, però a volte bisogna veramente ripeterlo e fa bene, 5-4 giorni sono pochi, no? Perché c'è talmente tanto, per cui va bene che sia da questo punto così. Di vista, sì, per esempio. Per dire una delle particolarità messe in evidenza dalla guida, Francavilla di Sicilia, in una grande centrale idrica ottocentesca, in mezzo a una serie di cascate, si trovano le gurne, qui sto proprio leggendo dalla guida, piscine sì. naturali di acqua freddissima, perfette per tonificarsi. Questi sono dettagli che in un posto come Francavilla di Sicilia, che appunto non è noto a chi ecco, non abita lì accanto, forniscono un dettaglio curioso in più, un'esperienza nuova che può e deve essere fatta. E ci fanno amare il nostro paese, perché ogni tanto ce lo dimentichiamo, ci vengono in mente solo le cose più ovvie e magari sì. quelle non tanto belle. Io ti ringrazio molto, Claudio, sei stata molto chiara e anche brava. Italia da scoprire, viaggiare in automobile verso mete insolite e lontane dalla folla, le guide Mondadori. Grazie ancora, Claudia, buona domenica. Prego, arrivederci. Grazie davvero. Io volevo anche salutare Kazuma, è un ascoltatore, chiaramente non è il suo nome, questo è il suo nickname, no? Il suo soprannome che viene usato, perché ha citato il geocaching in un suo SMS. Io sono un grande appassionato di geocaching, per cui ha toccato una corda che curiosamente avevo dimenticato, avrei dimenticato se non mi avesse scritto. Adesso vi spiego di cosa si tratta. Esiste un sito, voi segnatevelo, che è geocaching.com. Cosa significa? Letteralmente potrei tradurlo con tesori geografici. Funziona così. Voi dovete andare sul sito, ci sono anche delle applicazioni ormai per tutti i telefonini, per iPhone, per Android e per Windows Mobile, quindi per tutti gli smartphone esistono le applicazioni per geocaching collegate proprio al sito. Voi andate, se volete create un account, si chiama così, cioè create un vostro nome, potete anche non farlo, è gratuito, tendenzialmente è un sito assolutamente con un accesso gratuito, e cercate i tesori nascosti vicino a dove siete in quel momento o dove abitate. Esistono sicuramente, voi non ci crederete, pure ne troverete molti. Ma cosa sono questi tesori? Sono delle semplicissime scatolette che possono essere di metallo o di plastica che qualcun altro ha nascosto da qualche parte, non so, dietro un mattone di un muro di un palazzo, piuttosto che in un punto insolito. Cosa si fa? Si va a scovare questo tesoro usando le coordinate geografiche, quindi bisogna usare un GPS, un navigatore satellitare, ma ormai i telefonini lo fanno, no? Hanno integrato anche il navigatore. Comunque potete usare o quello dell'automobile portandovelo dietro o il telefonino. Andate a trovare questo tesoro. Una volta che l'avete trovato, potete prendere qualcosa che c'è all'interno di questa scatola, e si parla di una monetina, un fiammifero, di oggetti di valore zero proprio, e metterne uno vostro, cioè sostituire, oppure soltanto aggiungere o non fare assolutamente niente. Perché tutto questo? Perché con la scusa di andare a scovare questi tesori si scoprono un sacco di posti meravigliosi, perché vengono sempre nascosti in punti particolari, interessanti da qualche punto di vista naturalistico piuttosto che artistico, e quindi è un modo straordinario per fare delle gite fuori porta da soli, con i figli, anche molto divertente con i bambini, e scoprire un'Italia che altrimenti magari è un passo da casa e non si sarebbe mai scoperta. Anch'io ho nascosto dei tesori, e per cui se andate sul sito Geocaching e cercate i tesori de Il Galla, che sono io, troverete quelli che ho nascosto e anche quelli che ho trovato. Spero di avervi incuriositi, però provateci almeno una volta, perché è un'esperienza particolarmente divertente. Grazie a Kazuma di avermela ricordata. Gli aggiornamenti sul traffico, e poi continuiamo a parlare di turismi nuovi, perché sta cambiando anche quello. Il riposo del guerriero. 10:48, continua il riposo del guerriero dedicato al mondo dei viaggi e da tutti i punti di vista. Sara Magro, ciao, buona domenica. Buongiorno, buongiorno a te. Hai visto che serve mandare le mail ai conduttori? Sì, è vero, è incredibile. dillo ufficialmente che serve. Perché... visto che dopo 10 minuti mi hai risposto, e oggi a questo è successo giovedì, e adesso siamo qui a parlare di nuovi turismi, insomma. Credo che le email funzionino meglio di qualunque altra cosa. Assolutamente, per me è così, perché Sara appunto ha scritto un libro, adesso ne parliamo, lei mi ha mandato una mail dicendo: ah, non so, io seguo sempre Il Riposo del Guerriero, magari ti interessa questo libro. Siccome avevo idea di fare la puntata sui viaggi, ho detto: sei capitata a fagiolo, come si dice, perché sei arrivata nel momento giusto, brava. E ne parliamo di nuovi turismi, perché il turismo sta cambiando da tanti punti di vista. E da dove partiamo? Perché c'è talmente tanto da dire, non credo che oggi riusciremo a chiudere la puntata, sai, perché ho scoperto di avere molti più ospiti di quanto riesco a contenerne nella durata del programma. Allora facciamo così, cerchiamo di essere molto brevi, sì, se vuoi, dando così degli spunti, visto che siamo in periodo di vacanza e di organizzazione di vacanze. Allora, questo libro io l'ho scritto insieme al mio collega Mario Gerosa, abbiamo lavorato per tanti anni insieme a Condé Nast Traveler, e lì ci siamo fatti una discreta esperienza sicuramente sulle destinazioni, le mete più belle, i posti più belli del mondo da scoprire, però evidentemente tutti e due abbiamo avuto sempre un pallino su che cosa in realtà è cambiato nel mondo dei viaggi, e ci siamo accorti che ultimamente, soprattutto negli ultimi 10 anni, più delle destinazioni è diventato importante il modo di viaggiare. Ecco, io volevo dire, tu sei sociologa, giusto? Io, Sara, quindi sì. Ovviamente questo lato, questa visione ti appartiene molto, moltissimo. tantissimo, perché quello che mi incuriosisce è proprio come sono cambiati i gusti e gli atteggiamenti e le abitudini di chi viaggia. Diciamo che il mondo dei viaggi è cambiato tantissimo, se pensiamo dagli anni 80 ad oggi, ma poi dal 2000 a oggi, perché dal 2000 a oggi è l'analisi che noi abbiamo fatto con il nostro libro, ma dagli anni 80 a oggi, se noi pensiamo quanto è cambiato il mondo dei viaggi, è incredibile, perché fino a 30 anni fa viaggiare non era veramente una prerogativa di molti, anzi diciamo che era un lusso o così un privilegio per pochi, uno perché i trasporti aerei erano davvero molto costosi e poi perché pochi avevano la possibilità di muoversi per lungo tempo per lunghe distanze, poi non era concepibile viaggiare con i bambini piccoli, insomma c'era proprio tutta una organizzazione sociale ed economica che il viaggio non lo contemplava fra le sue abitudini. Oggi le cose sono radicalmente cambiate, cioè viaggiare fa parte delle attività del tempo libero e molti lo annoverano tra i propri hobby addirittura, ed è un hobby che è diventato più accessibile sicuramente, nel senso che grazie all'intervento delle compagnie low cost viaggiare è diventato anche più semplice, grazie all'intervento del web è diventato più autonomo, nel senso che le persone si mettono al computer, definiscono una rotta e trovano il biglietto più conveniente e ormai hanno strumenti per farlo da solo senza affidarsi ad un'agenzia di viaggio. Insomma, sono cambiate tante cose. Ecco, diciamo davvero che veramente il viaggio ormai parte un po' dalla rete ed è giusto, secondo me, che anche magari chi non è appassionato, chi non ama la rete, chi ancora non si collega, non ha neanche internet perché sa cos'è, però non lo utilizza se non magari al lavoro e basta, invece impari a capire che la rete è davvero ormai credo sia il punto di partenza, no? per i viaggi. Beh, per moltissime persone sì, perché comunque sei autosufficiente e autonomo e soprattutto che è proprio uno degli elementi che è cambiato profondamente nella psicologia delle persone è il fatto di fare un viaggio su misura, cioè non esiste quasi più l'idea di andare e comprarsi un pacchetto di viaggi, cioè esiste per non voglio denigrare assolutamente il lavoro né dei tour operator né delle agenzie di viaggio che fanno un ottimo lavoro, no, anche ma loro perché si sono specializzati, certo, ecco. C'è talmente tanto che a volte è proprio bisogno di andare da qualcuno e dire io vorrei andare qui, dammi un consiglio, perché loro conoscono, insomma, perché comunque sia diciamolo che si perde tantissimo tempo a cercare attraverso la rete, cioè diciamolo, non è facile, bisogna sapere dove andare, che cosa cercare e bisogna avere molto tempo da dedicare per costruirsi un viaggio. Lo voglio dire perché, come dici tu, non voglio sminuire assolutamente il mestiere del tour operator, che invece è quello di conoscere e di consigliare sempre bene, perché sanno e anche molto più velocemente. Sì, infatti, ma infatti poi in realtà cambiando il mondo dei viaggi, cambiando la psicologia del viaggiatore, sono cambiati anche loro, nel senso che si stanno specializzando e sono in grado di fornire delle occasioni di viaggio che da solo non potresti assolutamente costruirti, anche perché ci vuole molto know-how per fare un viaggio organizzato bene. Comunque il punto è che in realtà le persone hanno voglia di rendere ogni viaggio personale, quindi è in questo che magari poi alla fine il viaggio lo acquistano in agenzia, però tutta la parte di ricerca per valutare che cosa in realtà vogliono vedere, dove vogliono andare eccetera, è una ricerca che riescono a fare in autonomia, magari scremano una tot di viaggi, di destinazioni e poi si rivolgono effettivamente al tour operator e all'agente di viaggi specializzato o proprio per poi realizzare e concretizzare quello che hanno immaginato. Il loro viaggio. Nei tuoi capitoli ce n'è uno molto curioso, si intitola Lo spettaturista. Chi è? Lo spettaturista, ecco, questo è un fenomeno molto divertente, nel senso che ci sono persone che si appassionano a tal punto alle serie televisive che poi desiderano, sì, è come se si entrano nel telefilm, diventano parte di quella storia, di quei luoghi e dopodiché li vogliono conoscere. Vado a cercare Wisteria Lane, per esempio, ecco. O esatto. Cabot Cove. Oppure, insomma, ci sono viaggi che possono essere a breve e a lungo raggio. Diciamo che se uno si è appassionato a Elisa di Riva Ombrosa è più alla portata di tutti, sì. Nel senso che vai in Piemonte, cerchi questo Piemonte del Settecento ed è l'occasione per girarti il castello di Allier, piuttosto che la casina di caccia di Stupinigi, piuttosto che il castello di Racconigi. Quindi sono occasioni poi per scoprire dei luoghi a breve raggio, però poi ci sono anche viaggiatori più ambiziosi che vogliono scoprire la New York di Sex and the City e allora si rivolgono a All New York Tours e ti organizzano per mezza giornata un giro a Manhattan, nei luoghi, nei ristoranti, negli hotel dove è stata girata la serie. Poi ci sono ancora i più arditi che vanno fino a Oahu, alle Hawaii, perché sono appassionati di Lost e vogliono conoscere perdersi. Questo era lo spettacolo turista. Ci sono tantissimi altri modi di fare turismo, poi li elencherò. Adesso devo dare la linea al GR. Sara, ci sentiamo dopo il GR per ancora un minuto, che volevo con te elencare tutti questi turismi veramente completamente nuovi. Il riposo del guerriero. Le 11:06, ancora buona domenica, era Stefano Gallarini, il riposo del guerriero qui su Radio 24 per parlare di viaggi. Oggi cerchiamo di viaggiare in tutti i modi. Abbiamo cominciato con il percorso di studi per capire come è possibile viaggiare anche in modo alternativo. Stiamo usando un po' di tutto, bicicletta, automobile, il geocaching, appunto, per andare a scoprire tesori nascosti in giro per il mondo. C'è Sara Magro ancora al telefono. Sara, hai resistito? Sì, che insieme a Mario Gerosa ha scritto Nuovi turismi, 100 alternative al classico viaggio. Allora, ne abbiamo parlato prima, ma volevo chiudere con te con una sorta di interrogazione. Abbiamo un minuto di tempo. Io adesso ti dico un tipo di turismo che tu hai citato insieme a Mario e ci spieghi in due parole di cosa si tratta. Va bene. Il world tourism. World tourism è un turismo nei luoghi e negli scenari di guerra, e per chi vuole essere in prima linea. Turismo top secret. Turismo top secret è quello nei luoghi della nei luoghi dove si svolgono attività segrete del passato, ovviamente. Ah sì, perché segrete di oggi non si potrebbero sapere, insomma. Ecco. Esatto, di oggi. Abbiamo dei modi, c'è Wikileaks che ci dà dei suggerimenti su dove andare, ecco, quello può essere la nostra guida di viaggi. Emotourism. L'emotourism ancora è un turismo legato ai disastri, ai disastri o ai delitti, per cui non so, oggi si va da Vetrano, ieri si andava in Val d'Aosta. Sì, certo, fammi dire che tristezza. Esiste, ma è un fenomeno che esiste. Ma quante volte ti è capitato di rimanere bloccato in una fila in autostrada, tu dici ma cosa è successo? Ed era semplicemente, magari guardavano dall'altra parte. Io sono uno di quelli che invece, se non c'è bisogno di me, tiro dritto. Allora, mea culpa tourism. È quello che ti provoca la disperazione. Tu vuoi compartecipare a questi disastri che sono accaduti, per esempio nel Katrina, quando c'è stato l'uragano Katrina. Sì. Ci sono dei tour che ti portano su quel posto dove tu rivivi proprio l'esperienza attraverso quello che vedi, la distruzione che ti appare sotto gli occhi. Ecco, qui però bisogna far valere però la tua laurea in psicologia, nel senso che bisogna capire cosa c'è di malato, no? Scusami, non lo dico sorridendo e tra virgolette questo malato, però insomma c'è una spinta, no, psicologica, che andrebbe forse valutata. Guarda, io ti dirò una cosa, sì. In quanto giornalista come te, c'è veramente anche una volontà di conoscere, di vedere dal vivo e non di sentire soltanto per letto. Sì, anche una curiosità. Che accade nei luoghi, non è una curiosità sempre malsana, per carità c'è anche questa dose malsana, però è anche vero che tu vuoi avere, siccome ormai le notizie sono sempre più lontane. È il desiderio della conoscenza, voglio provarlo, sì, sulla mia pelle, non, se non vedo non ci credo, ecco, ci sta. Esattamente. E sono molto contento perché hai messo anche i viaggi delle pentole, perché ancora resistono questi viaggi. I viaggi delle pentole, diciamo che stanno vivendo una nouvelle vague, cioè ritornano come grande passione perché sono economici. sono economici, certo. Sono divertenti, perché anche il gruppo con cui parti fondamentalmente è divertente, è qualcosa di molto simile al tartina tourism, che è un altro tipo di turismo dove ti vai a imbucare in tutti gli eventi e mangi gratis. Mangi gratis, sei contento, sei stato in mezzo a un sacco di gente e hai trovato un'alternativa alla tristezza magari del mangiare da solo a cena a casa tua davanti alla TV, insomma, cioè in fondo c'è sempre una spinta in tutto questo di voler condividere con qualcuno, di stare in mezzo alla gente e di andare a vedere dei posti. Quindi fondamentalmente, torno a ripetere, pur esistendo il lato un po' malsano in questa cosa o in qualcuno, c'è sempre anche un lato molto ludico che va un po'. E noi cerchiamo ovviamente di vedere quello. Grazie Sara Magro, buona domenica. Grazie a te, buona domenica. Nuovi turismi, 100 alternative al classico viaggio edito da Morellini. Luigi Cantamessa, ciao, ti ho citato prima e quindi adesso ti saluto. Grazie Stefano, buongiorno a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Allora, Luigi è funzionario ingegnere delle Ferrovie dello Stato, lui si occupa del parco storico proprio delle Ferrovie dello Stato. Allora, intanto come sta andando? Lo diciamo perché quando ti sentiamo c'è sempre questo affanno. Siccome mantenere i treni storici costa molto, e parliamo ancora di locomotive che funzionano a carbone, dico bene? Ecco. È verissimo, noi teniamo in vita... E talvolta riportiamo anche agli antichi splendori locomotive che hanno un secolo di vita. Lo facciamo grazie alla collaborazione con le associazioni di volontariato che coadiuvano le Ferrovie dello Stato nelle operazioni di decoro, più che altro. Certo, però... quindi rimettere un po' in sesto. Ti sentiamo un po' male, Luigi, non so se riesci ad avere un punto con un pochino più di campo per i telefonini. E intanto, quindi volevo dire, costoso, e quindi insomma questa vita dei treni del passato è un po' alterna, cioè alterna momenti così floridi e momenti un po' più difficili. Come sta andando in questo momento? In questo momento sta andando bene, nel senso che la domanda di viaggi d'antan sulle linee ferroviarie secondarie è sempre sulla breccia. Ecco, quindi... funzionano. Senti Luigi, ci vuoi dire, appunto, dire più che altro agli ascoltatori, non so, proprio perché so che di solito i viaggi vengono fatti il sabato e la domenica soprattutto, se c'è qualche viaggio ai quali possono ancora aderire per, insomma, gustarsi questo momento, io l'ho provato e devo dire è indimenticabile, per cui portate tutte le macchine fotografiche possibili e cercate di godervelo, e voi e con i vostri cari. E dove possiamo andare magari proprio la prossima domenica o fra due domeniche? Allora, fino a luglio sono attivi gli itinerari sul lago d'Iseo o sulle crete senesi, nella terra del Brunello di Montalcino. Possono trovare le informazioni su www.ferrovieturistiche.it e accaparrarsi gli ultimi posti disponibili, perché sono veramente molto ambiti. Esatto, per cui insomma, vi consiglio di provare questa esperienza. Luigi, ti sentiamo male, ma sai che noi ogni tanto ci sentiamo, per cui poi ci racconterai anche come va. Adesso abbiamo citato due itinerari, ma ce ne sono tanti in tutta Italia. Grazie Luigi Cantamessa e complimenti per quello che fai e che fate come Ferrovie dello Stato. Grazie mille Stefano, alla prossima. Buona domenica, ciao. Grazie. È una passione sua per forza, perché se non hai quella passione lì non riesci a portare avanti con fatica e proprio stringendo i denti, ma poi una volta che provate un'esperienza del genere, ritornate, fate un tuffo nel passato, vi renderete conto di quanto, insomma, dobbiamo amare anche proprio le nostre ferrovie, che sono state un fiore all'occhiello per l'Italia. Mauro Morellini, buona domenica, ciao Mauro. Buona domenica a tutti. Ecco, Mauro è proprio l'editore e parliamo di una guida pubblicata da voi che si intitola Dove vado con 100 euro? E lo chiedo io a te, Mauro, dove vado con 100 euro? È un titolo un po' provocatorio. Ovviamente volevamo mettere in copertina un aeroplanino fatto con la banconota da 100 euro. Sì. Ovviamente è molto provocatorio. È vero, con 100 euro bisogna stare belli stringati, però ce la si fa, perché effettivamente, soprattutto se si prenota con un certo anticipo, i voli low cost oggi consentono di farsi un weekend a dei prezzi inimmaginabili anche solo qualche anno fa. Beh, un'ascoltatrice ha scritto 80 euro andato e ritorno a Marrakech, ma questo è il mio microfono in questo momento, no? Perché sappiamo che i microfoni potrebbero avere un problema oggi, mi è stato detto, annunciato, fino adesso è andato tutto bene. Ci siamo. Allora Mauro, scusa, dicevo, un'ascoltatrice appunto ha così detto che con 80 euro è riuscita a fare andata e ritorno Marrakech. Quindi il primo consiglio è quello di mettersi in pista il più presto possibile. Sicuramente isolamento oppure scegliere quelle destinazioni, che è un po' anche il senso della nostra guida, che sono state di fatto scoperte adesso, quindi destinazioni meno ovvie o che fino adesso gli italiani poco conoscono, come ad esempio Amburgo, Riga, Tallinn o la stessa Valencia, che in questi anni ha conosciuto un piccolo boom. E quindi ovviamente prima ci si muove, e soprattutto se si scelgono date non vicino al weekend, più è facile trovare tariffe veramente molto basse. Io comunque batto l'ascoltatrice perché vado a Parigi con 49 euro. Ecco, mi direi come hai fatto, per magari ti prendo il biglietto così. Il riposo del guerriero. Con Mauro Morellini stiamo parlando di questa guida dove vado con 100 euro. Allora Mauro, ma chi non avesse la possibilità di organizzarsi in tempo, come fa a risparmiare? Punto di domanda. O scegli una meta strana, e difatti il senso di quella guida è appunto dare una breve carrellata di città raggiungibili coi voli low cost, quindi raccontare in 4-6 pagine che cosa si può fare a Tallinn piuttosto che a Amburgo, oppure cerca di evitare i fine settimana, anche se ovviamente questo vuol dire prendersi dei giorni di ferie. Ecco, credo che cercare di andare il prossimo weekend a Londra difficilmente penso si possa stare nei 100 euro, perché sicuramente una delle mete più richieste, e per quanto ci siano molti voli è difficile farcela. Però ad esempio Tallinn è capitale europea della cultura, in questo periodo c'è anche il sole di mezzanotte, o la stessa Amburgo, come dicevo poc'anzi, spesso sono raggiungibili con tariffe intorno ai 30-40 euro andate e ritorno. Ecco, poi la guida racconta anche come è possibile risparmiare, non soltanto per quanto riguarda il viaggio, ma anche per i pernottamenti, insomma, sì, dà delle indicazioni. Sì, noi torniamo qualche indirizzo, sia di alberghi che di ristoranti, e c'è una piccola sezione per ogni destinazione che è cosa fare gratis. Addirittura, e cosa è possibile fare gratis, per esempio? Ovviamente moltissime cose all'aria aperta, però ci sono effettivamente dei musei che hanno un giorno gratuito alla settimana per l'ingresso, tanto per fare un esempio. Ecco, quindi tu dici fondamentalmente riuscire a partire prendendo i giorni di mezzo, quindi non prendendo il weekend, di solito fa risparmiare. Magari prendendo il weekend, però rientrando, che ne so, il lunedì o partendo il sabato, ecco, cioè non fare il classico partenza venerdì sera e rientro. Certo, anche perché alcuni voli con dentro il weekend, senza partire in quei giorni, e poi riescono a costare anche meno. Mauro, la guida è già disponibile? La guida è già disponibile, è una guida a una 50 di destinazioni raggiungibili con i voli low cost. Ecco, dove vado con 100 euro, guida rapida appunto alle destinazioni low cost. Grazie Mauro, buona domenica. Grazie, ciao, buona grazie. Buona domenica. Grazie a Rolando, anche un ascoltatore che scrive: ieri a Brescia abbiamo disputato il primo gran premio di auto a pedali, devo dire particolarmente ecologiche, ed è stato un successo. Immagino di sì, non so quanti chilometri abbiate fatto, però insomma sicuramente lo è. E Fables, buona domenica, ciao. Ciao Stefano, buongiorno. Parliamo di guerriglia marketing, perché anche quando si parla di viaggi, insomma, guerriglia marketing entra in gioco, e devo dire che fra le idee che a Fables sono venute in mente ce n'è una che mi ha sconvolto, tant'è vero che mi ha fatto venire in mente addirittura di costruire un programma proprio su questo, forse televisivo, perché andrebbero viste. Allora, parliamo di un albergo di Amsterdam che è stato citato come il peggior albergo del mondo, se non ho capito male. Sì, ma più che citato sono loro che si vantano di essere il peggior albergo del mondo. E questa cosa succede dal 1996. L'hotel è Landsbrinker Budget di Amsterdam, per l'appunto. Sì. Che è riuscito in qualche modo a trasformare tutta la mancanza di servizi in dei punti. Diciamo, ecco, devo dire, ecco, esatto, diciamo, è riuscito, tra virgolette, perché io comunque non ci andrei personalmente. Il fatto è questo, che comunque sia ad Amsterdam di alberghi, di ostelli, di quel genere, ce ne sono molti. E diciamo che per prezzo e per comfort non si differenziano molto uno dall'altro. Ecco, quindi lui dice: riesco a essere più famoso perché ho giocato la carta del mio veramente tremendo, e ti faccio vedere quanto è bello che sia tremendo. Sì, ma soprattutto giocano in maniera scherzosa sul fatto che hanno mancanza di servizi. Ad esempio hanno un bar con una luce limitata e senza aria fresca, un ascensore che non si ferma quasi mai tra un piano e l'altro. Oppure, non so, hanno fatto differenti campagne dal 96 a oggi, una per esempio assolutamente geniale, che prevedeva anche una scritta di questo tipo fatta attraverso un cartello che hanno messo poi al bar: attenzione umani, perché il vostro sistema immunitario è in pericolo, dovete assolutamente prendere nuovi batteri per rafforzare il vostro sistema immunitario. Esatto, no, tu sei sicuro che andando in quell'albergo così migliorerà il tuo sistema di difesa, perché ci sono nuovi batteri che ti attaccheranno proprio in quell'albergo lì, perché non è proprio l'igiene, non è proprio la prima cosa. Esatto. Ho visto anche che hanno giocato per esempio sull'ecosostenibilità. Esattamente. Praticamente che cosa hanno fatto? Hanno trasformato di nuovo tutti quanti i loro disservizi in una campagna ecosostenibile. Vale a dire, hanno fatto delle campagne, una campagna stampa ed un video dove mostravano, non so, una ragazza che affacciata dalla finestra si asciugava i capelli, e quello per loro era, diciamo, l'eco. Sì, c'era scritto FON ecosostenibile per forza, perché ha l'aria fuori. Oppure, non so, diceva aria condizionata ecosostenibile ed è la finestra. Esattamente. Ecco, l'elevator invece c'era semplicemente l'immagine delle scale. Ecco, sì, esatto, per cui insomma hanno giocato... Esattamente, sono anche andati addirittura in strada, cioè nel senso non hanno fatto solamente campagne web per comunicare, ma per esempio hanno mandato anche un uomo sandwich, il classico uomo sandwich, quello che ha di fronte... Col cartello davanti e dietro. Esatto, che diceva, c'era una mano che come se ti stoppasse e diceva per favore non andate all'Hansbrinker Budget Hotel. Questa campagna di comunicazione è diventata talmente famosa che il creativo, che è Kester Schramer, tra l'altro Kester Schramer e tutti e due con la K, vi consiglio di andare a vedere perché ha un sito molto particolare, ogni volta che tu fai il refresh della pagina cambia l'home page del sito, che nel 2009 ha fatto i 10 anni di campagna dell'Hansbrinker Budget Hotel, li ha riassunti in un libro che si chiama proprio The Worst Hotel in the World. Ecco, e devo onestamente da ex pubblicitario posso dire che il copy, cioè lui, questo KK, è riuscito a costruire davvero un immaginario nuovo, è riuscito davvero a vedere un bicchiere mezzo pieno dove proprio mezzo pieno non è affatto, per cui tutti i miei complimenti, perché lo fa in modo davvero ironico e anche intelligente, questa forse è la cosa più difficile. E volevo chiudere con te, Fables, con un'iniziativa, siccome parliamo proprio di viaggi che non vanno così bene, ecco, da quello che è l'albergo appunto è pessimo, a un tour operator virtuale che ha avuto il server di internet spesso abbattuto, cioè quindi inutilizzabile, con grande polemica da parte dei clienti, no? Pronto? Fables? In Francia, pronto? Ah, ecco, no, non ti sentivamo, scusami, perché abbiamo... Siamo in Francia, invece, sì. Dove come se fosse la nostra ferrovia dello Stato, che cosa hanno fatto? Hanno premiato, dopo diversi problemi al loro sito, hanno premiato 5 visitatori. In che modo? Diciamo, portando direttamente in stazione dei benvenuti e degli arrivi particolarmente strani, vale a dire ad una ragazza particolarmente appassionata di heavy metal, hanno organizzato un vero e proprio concerto heavy metal. Sì, quindi questa è scesa dal treno e hanno fatto un concerto heavy metal cantando una canzone con il nome di lei. Esatto, dedicata a lei e alle sue abitudini e a quello che gli piaceva. Ad esempio, non so, ad un visitatore giapponese hanno addirittura inscenato un combattimento tra ninja e samurai. Ecco, ce n'è uno straordinario con un... non so se lui è un uomo d'affari che arriva in stazione, e arriva una donna e dice: ah, ti ho aspettato tutto questo tempo, finalmente sei arrivato, io ti amo, e poi ne arriva un altro, cioè... Sì, esatto, e portano via trionfante questo ragazzo in mezzo a 20 ragazze. E poi alla fine arriva una ballerina di samba con tanto di piume e se lo porta via, e lui infatti lì fa un sorriso, devo dire, particolarmente convinto, per cui non so come è stata. E chissà se, insomma, potrebbe essere un buon modo per farsi pubblicità. Voi andate a vedere il filmato, c'è il sito di Blog Guerriglia, che è bloggerriglia.it, è il sito di Fables, e lì potrete vedere i filmati dei quali stiamo parlando, e vi invito proprio a osservarli, perché è un bel modo per parlare delle cose che non vanno bene e cercare di, insomma, di far capire che si è preso atto della questione e si vuole anche risolverla. Grazie Fables. Grazie a te, buona domenica, grazie come sempre, e speriamo di farcela con appunto i microfoni che fanno le bizze. Oggi c'è il nostro gastronauta. Il gastronauta. Davide Paolini, ciao, buona domenica. Buona domenica a tutti. Permettimi di dire il numero verde per prenotarsi per il gioco tra poco, 800 24 00 24, per il mistero in 24 minuti, per voi ci sono fino a 1.000 euro. Allora, io comincio dalla notizia, perché non posso non farlo. Vino, sorpasso storico sulla Francia, l'Italia è il primo produttore al mondo, dati 2010. Allora, dico, sono al posto giusto nel momento giusto, perché sono nel Collio, sì. E ha una manifestazione che si chiama Vini e Confini, quindi diciamo più adatto di così oggi proprio non ce n'è per parlare di vino, perché credo che appunto questa sia una delle zone vocate di tutta Italia. Poi c'è questa manifestazione dove si bevono grandissimi vini di Alcolio. Ma devo dire che tu ora riderai, perché come al solito dici che io vado controcorrente. No, lo sai. È una notizia che mi fa ridere. Mi fa ridere perché cosa significa se abbiamo battuto nella produzione la Francia? Perché bisogna quando si invece, perché bisogna quando batterla in valore, cioè bisogna batterla in valore. Cioè noi esportiamo all'estero il costo di una bottiglia è la metà di quello dei francesi. E allora andiamo a vedere, cioè, i margini sono veramente risicati per la produzione italiana. Chi produce di più ma vende male oppure non riesce a strappare dei valori che sono importanti, è inutile fare queste. Queste sono le vittorie di Pirro, come quando annunciamo che le bollicine italiane hanno superato lo champagne. Cosa significa? Dentro mettiamo di tutto un po'. I francesi hanno solo lo champagne col metodo lo champenoise, noi abbiamo 30.000 metodi e abbiamo delle bottiglie che vanno da 0,80 fino a non so cosa. I francesi strappano dei valori importanti. Allora io credo che bisognerà brindare nel momento in cui supereremo in valore per bottiglia venduta i francesi. Allora mi metto anch'io diciamo da questa parte, però oggi non esulto perché secondo me è sbagliato esultare oggi di fronte a questi dati. Ecco, il 60% della produzione nazionale però è rappresentata proprio dai vini di qualità, quindi vini DOC e di OCG. Sì, il 60%, però se poi si fanno fare i calcoli, magari i francesi sono l'80%, il 90%. E allora arriviamo a quel risultato lì, battiamo i francesi in valore. Cominciamo a fare queste cose, non tanto in quantità, quanto vino italiano, sì, d'accordo sull'esportazione, ma quanto vino italiano viene venduto nei supermercati a 0,90 o mi sembra che la media sia 1,94, cioè veramente, ma cosa c'è dentro? Cioè cosa c'è, che vino o viene venduto in perdita o non so cosa, perché se calcoliamo il costo della bottiglia, del tappo, di distribuzione, dell'etichetta… Già lo superiamo, già superiamo quel valore. Certo. Non dico che lo superiamo, perché io credo che non siano dei folli chi lo vende, dico e mi pongo dei problemi, cosa c'è dentro, tutto qua, è solo questo, o si vende perché si è costretti e quindi questa non è sicuramente una bella situazione, oppure non lo so, è un po' come la storia dell'olio, l'olio si sa bene perché viene venduto a certi prezzi, perché dentro ci sono cose importate che costano veramente poco, ci sono olive che arrivano da tutto il mondo, quindi è molto diverso dal vino, noi sicuramente la strada della qualità dopo l'86 l'abbiamo raggiunta, per carità. La media dei vini italiani di qualità è sicuramente enorme, però vorrei così esultare per altro. Ieri sembrava che fosse successo, avessimo vinto una guerra importante, cioè su tutti i giornali, in televisione, dappertutto. Anche io te ne voglio parlare, vedi, ho fatto apposta. No, mi sembra che ci sia un po' da ridimensionare questa notizia. Tutto Senti, qua. Speravo di darti una notizia, già la sapevi, lo so, ma volevo darti un'occasione per brindare, ma tu non hai bisogno, tanto voglio dire. No, io prendo oggi in piazza Sant'Antonio a Gorizia, brindo, io che altro bevo dei grandi vini bianchi. No, credo che sicuramente, come dicevo, anche in questa zona del Friuli, nel Colio, sì, ma anche nelle altre zone, nei Colli orientali, nelle Grave, nel Carso, nel Carnia, cioè diciamo che sicuramente, cioè, i vini sono di grandissima qualità, è un territorio che è sempre stato all'avanguardia, poi è tenuto molto bene con gente civilissima, quindi questo è un altro importante. Al di là ci sono i vini, quelli di confine, gli sloveni, che stanno arrivando forte anche questi, quindi anche la concorrenza qui è molto, ma molto forte, e quindi anche qui i vini italiani devono stare sempre sul chi va là. Come ti dicevo, nel giro degli ultimi 30 anni la viticoltura italiana ha raggiunto dei risultati straordinari, sono il primo io ad esultare di questo, però cioè, per la quantità io non sarei così, come posso dire, esultante. Preferisco parlare di qualità e preferisco di parlare di bere con moderazione, bere bene ma bere poco, ecco, e ritorno al discorso della quantità. E questo, insomma, l'abbiamo detto tante volte, ma va sempre benissimo ribadirlo: la qualità prima di ogni cosa. Grazie Davide Paolini e goditi la tua Alla giornata. Prossima polemica. Ciao, che meraviglia. Io me l'aspettavo, lo sa Davide, lo faccio apposta. Il riposo del guerriero. Eccomi pronto col sacchetto da 1.000 euro qui a disposizione per voi. un mistero in 24 minuti. Dovrete darmi la soluzione risolvendo il mistero ascoltando gli indizi. Più indizi ascolterete, più il premio si abbasserà. Partiamo da 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it in libri cartacei o elettronici. E la risposta, la soluzione potrà essere un personaggio, qualcosa di conosciuto o una notizia della settimana. Il primo indizio arriva da una coppia che ha molto venduto con un disco che ha avuto tantissimo successo, e loro sono due grandi, insomma, della musica italiana, ovvero Mina e Celentano. Sospesi in aria lo stesso piano, come due palloni di gas con uno spillo in mezzo. E tenuti in volo da un vento costante lento, che ad un primo cambio di verso li scompi così da la miseria. Ma così non si può discutere senza gridare. Devo dire che gli Audio 2 che hanno scritto questo brano sono stati gli eredi di Battisti, perché l'hanno copiato in senso buono, lo dico, proprio come genere, anche la struttura della musica e il modo di cantare. A tanto che non si sentono, però indubbiamente, insomma, questa canzone, come Neve e altre, hanno segnato un po' la storia di una certa musica italiana che un po' mancava, perché Battisti, mancando da molti anni, insomma, in qualche modo sulla scena italiana se ne sentiva la non presenza. Specchi riflessi, questo è il titolo della canzone. Mina e Celentano, Emilia è la prima a giocare. Ciao Emilia, buona giornata. Buona giornata. Spero di averti regalato una bella canzone. Sì. E tu dovrai regalarmi qualcosa, o una soluzione per i 1000 euro, oppure la richiesta di un altro indizio e scendere a 500 euro. Ma io ci provo subito. Eccolo là, Emilia, vai. Allora, potrebbe essere la rottura fra Santoro e la Rai. Specchi riflessi, giusto? Grazie Emilia. Prego. Buona giornata, ciao. La risposta giusta la si scoprirà soltanto allo scoccare del 24esimo minuto, e potrebbe essere anche giusta quella, appunto, di Emilia. Sarebbero 1000 euro così. Giancarlo da Cuneo, buona giornata. Buona giornata. Allora Giancarlo, cosa vogliamo fare? Ti vuoi buttare anche tu o vuoi ascoltare un altro indizio e scegliere quasi 500. Quasi ascolto un altro indizio. Eccolo qua. Allora, ti faccio ascoltare una canzone che non so se ricorderai. Partecipò a un festival di Sanremo di molti anni fa, più di 10, e secondo me questa canzone contiene tutti gli elementi che normalmente una canzone di Sanremo deve avere, sia la struttura musicale sia il testo. Non so se te la ricordi. La cantava Alessandro Canino. Ti senti sola e sconfitta. Allegria di là in salotto, e nessuno si domanda dove sei. Vanno via, ma io ti aspetto con in mano questi fiori per poterti dire tanti auguri, Bru. Struttura di una canzone per Sanremo, ritornello, poi bisogna alzarsi di un tono ogni volta, si alzerà di un altro tono all'ultima strofa, con testo, insomma, che riguardi i problemi dell'adolescenza, e così, insomma, tu hai costruito. Quindi Giancarlo, se tu vorrai mai partecipare a Sanremo, questa è la ricetta della canzone, ok? Grazie del consiglio, anche se non credo che mi vedrete mai a Sanremo. Comunque sia, altro che 10, sono passati quasi 20 anni, 19 anni fa, era del 92. Lui tra l'altro è tornato l'anno scorso con Eco di un addio, perché dopo tanti anni è tornato con una canzone che però non ho mai sentito. Allora Giancarlo, cosa vogliamo fare? Questo era Brutta, Alessandro Canino. Niente, qui c'è un canino che combatta con l'idea che avevo già prima, e quindi non lo... ti rafforzativo. Allora vai. La notizia di una modella che ha fatto caso a una linea di cosmetici perché l'hanno utilizzato una sua foto, non una delle migliori, per un prodotto anti-rughe. Come vedi, capisci che se questa risposta fosse giusta, se fosse giusta appunto, i due indizi sarebbero perfetti. Giancarlo, non posso dire niente. Ciao, grazie. Ciao. Carmen da Cuneo, buona giornata. Buona giornata anche a lei. Oh, guarda come sei pimpante. Ma sì, ma dedico tutte le domeniche al riposo, sì. Quindi l'ascolto, ecco. Ascolto sempre la radio. e non ho mai azzeccata una. Ho detto oggi ci provo, o non mi sento testa, che non ha niente a che fare con l'indice. Ah no, quando hai detto dedico tutta la domenica al riposo, pensavo a dormire, invece intendevi dire al riposo del guerriero, al programma, capito? Certo, tutte e due. Riposo mentale al mattino alla radio, riposo pomeriggio passeggiata con i cani. Brava Carmen. Allora facciamo così. Tu non che... ho mai azzeccata una volta. Ci proviamo stavolta. Vuoi un altro indizio oppure vuoi buttarti? No, anche se non c'entra niente con i due indizi prima, io ci provo lo stesso perché è un indizio che mi ha colpito. Allora comunque. aspetta Carmen, sentiamo i due indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. Noi due specchi incontro riflessi ma lontani. Brutta, ti guardi e ti vedi brutta. Mina Celentano con Specchi riflessi e Alessandro Canino con Brutta. Allora Carmen, la tua risposta. Allora, la mia risposta ce l'avevo già in testa prima, le ripeto, non ho mai azzeccato una volta. Il T andava benissimo, comunque va bene, vai avanti, sì. Comunque ti dico la mia notizia che mi ha colpito questa settimana, un ritorno di The Economist. Ti ricordi 3 giorni fa la pubblicazione la notizia è la pubblicazione di The Economist con Silvio in foto e la traduzione piuttosto blanda italiana della frase inglese The man who screwed up his country. La traduzione italiana è stata molto blanda, comunque sarebbe in inglese l'uomo che ha mandato al diavolo il suo paese. La pubblicazione, perché sì, Berlusconi era già The Economist, io insegno inglese, era già uscito anni fa con Silvio, The Man Unfit, l'uomo inadatto a governare esatto, è ritornato. Sì. Allora niente, quella era la mia notizia e indipendentemente da tutto io ci proverò tutte le volte e basta. Brava Carmen, è così che si fa, non ti posso dire nulla e poi sentiremo la risposta, magari la tua è quella giusta, alla fine del 24esimo minuto. Buona domenica e grazie ancora. Grazie a voi. Ciao davvero, gli aggiornamenti sul traffico. Un mistero in 24 minuti. Continuiamo con il nostro mistero. Non so se dirvi... No, non vi dico niente. Stefano, dalla provincia di Milano. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Guai, lo dico, ormai non si può gettare così l'amo e poi non dire nulla. Nessuno ha ancora indovinato fino a questo momento. Va bene. Quindi allora, ci sono ancora possibilità di portarsi a casa in questo momento i 500 euro. Bene. Cosa vuoi fare, Stefano? Ma io, visto che non ci ho ancora capito nulla, niente, punto ad un indizio. Allora eccolo qui, il terzo indizio per 300 euro. I maschi disegnati sui vetri confondono le linee di Milo nelle vetrine dietro ai bistrò. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Povera Gianna Nannini, è stata troncata così però brutalmente dal nostro minutaggio. Allora, beh, questa è una canzone molto famosa, era I Maschi. Sì, c'è stato un consulto in casa. Eccolo là. Durante la trasmissione c'erano due... Due fazioni, come al solito. E dopo una sola. Vai. Poi già condiviso, è Europride. Il War Pride. Sì, quello che si è tolto, si è svolto ieri a Roma ieri, sì. Con Lady Gaga come protagonista. Grazie, grazie esatto. Stefano. A ciao, poi. buona giornata. Ciao. Grazie. Così, per curiosità, Stefano non l'abbiamo più, vero? Ormai è andato giù. Pronto? Vediamo se no avrà messo giù. Ero solo curioso, stupidamente non gli ho chiesto quale fosse la seconda possibilità. Mi incuriosiva. Laura da Trento, buona giornata. Buona giornata. Eccoci qua. Allora, Laura, abbiamo già 3 risposte, 3 indizi, anzi 4 risposte fino a questo momento. E l'ultima, War Pride, non posso dire nulla. Allora, cosa vuoi fare, Laura? Ma un altro indizio. Anche tu? Sì. Senti un po' questa, vai, era Gabriella Ferri, tanti anni fa. Mostrar alegria. Hai capito, Laura, come si fa? Conosci una storia d'amore che, insomma, non finisce bene, tu ti armare a mostrare le chiappe chiare, Laura. Chissà quante volte l'hai cantata, magari questa canzone l'hai sentita. Certo. Laura, allora, questo era il quarto indizio. Siamo a 200 euro e credo che adesso, insomma, tutto sia chiaro. Spero, almeno. Ma spero, qualcosa legato al referendum, qualcuno che dice di non la spallata che si vuole dare a Berlusconi andando a votare, insomma, il referendum. Grazie Laura, buona giornata, ciao, tutti al mare. Irene. Buongiorno. Allora Irene, buongiorno a te. Abbiamo ancora qualche minuto, quattro indizi scoperti. Sì, io non ho nessuna idea. Pensa bene all'ultimo indizio. Non mi viene niente. Tutti al mare a mostrare le chiappe chiare. No, non mi viene in mente niente. Quindi dico, per lasciare spazio a qualcun altro, la notizia che mi è rimasta impressa questa settimana, sì? Era quella della proiezione del film che ha vinto la Palma Cannes, al contrario, in un cinema di Bologna. Non si sono accorti, l'hanno applaudito. Non si sono accorti. Hanno mandato in onda prima il secondo tempo, sì, e poi il primo tempo. È stato bellissimo. Anzi, raccontato in un modo. Devo dire che complice anche un po' la trama del film, che è proprio al contrario della trama. Per cui, cioè, ma... era facile cadere. Anche per film quando si usciva dal però film. Però questo, come sempre, dice molto a volte sulla critica. Grazie Irene. Grazie, ciao. Ciao. Ce la facciamo ancora con Adriano da Venezia. Adriano. Sì. Dammi ciao. La risposta tu, dai. Sì. Un problema. Come un problema? Dai, dammi. Ci sono altri indizi? C'è l'ultimo. Non ci sta, non ci sta, non ci sta, non ci sta l'ultimo indizio, no. Non ci sta l'ultimo indizio. Avevo pensato anch'io a Santoro perché mi sembrava. Bisogna pensare alle chiappe, che non sono proprio chiare, ma c'entrano. Le chiappe. Beh, sì. C'entrano le chiappe. Ah, qualcosa di brutto che ha fatto discutere. Adriano, la risposta la do con te. Tu l'hai vista quella brutta pubblicità, considerata brutta da molta critica, e non l'ho detto io, che ha usato e sta usando i bronzi di Riace per promuovere la Calabria? Sì. Eccola lì. Questa era la notizia, la brutta pubblicità di cui tanto si è discusso perché stanno cercando di farla togliere, che promuove la Calabria usando i bronzi di Riace diventati bulli con le chiappe fuori, in poche parole, no? Ecco, sempre questa, specchi riflessi, perché loro due, insomma, sono molto simili, no? In questo sono diversi ma simili. Brutta perché è stata considerata brutta la pubblicità, i maschi perché di due maschi si tratta, e tutti armare a mostrare le chiappe chiare perché è quello che si vede nella pubblicità e che è stato anche criticato. Mi dispiace Adriano, grazie però di aver partecipato, ovviamente grazie a tutti per aver seguito Il riposo del guerriero, a Giorgio De Luca redazione, l'assistenza oggi di Laura Vanossi, che saluto, e a Paolo Correoni in regia. Grazie a tutti voi, ci sentiamo domenica prossima alle 10 come sempre con Il riposo del guerriero. Buona domenica da Stefano Gallarini.